Container, l'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Tra i carburanti alternativi a quelli petroliferi, il gas naturale liquefatto, o GNL, è una delle soluzioni su cui sta puntando di più il mondo del trasporto merci. Lo testimoniano le vendite di mezzi pesanti, le politiche italiane che promuovono incentivi per le alimentazioni green e la crescita esponenziale delle stazioni di rifornimento sul territorio nazionale. Il GNL è un gas naturale liquefatto attraverso un processo di raffreddamento a meno 160 gradi centigradi. Il suo volume ridotto permette così costi di stoccaggio e trasporto attraverso autocisterne, navi e vagoni cisterna particolarmente competitivi. Nonostante il forte sviluppo di infrastrutture di distribuzione finale, in Italia però non esistono impianti di produzione o stoccaggio ed è quindi necessario rifornirsi all'estero. Le scorse settimane alcuni scioperi in Francia, al porto di Marsiglia, hanno reso difficile l'approvvigionamento, con conseguenze anche sui nostri distributori che, in futuro, potrebbero farsi sentire anche sulle imprese di autotrasporto, che hanno flotte alimentate a GNL. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. E come avete ascoltato dalla nostra scheda iniziale, ci occupiamo oggi di un tema particolarmente caldo, quello dei carburanti alternativi. Per i veicoli pesanti, per il trasporto commerciale, non è facile utilizzare tutte le varie possibilità offerte oggi dalle alternative al carburante tradizionale, però alcune soluzioni si stanno cercando e trovando in questo senso. Una di queste si chiama LNG o GNL, in pratica gas naturale liquefatto. Che cos'è? Semplicemente il caro vecchio metano che conosciamo sulle nostre auto già da diversi anni, che però viene portato a temperature molto basse in modo da poter essere trasportato e immagazzinato soprattutto nei serbatoi in quantità maggiori, ed è una soluzione che si sta affermando molto nel trasporto pesante in Italia e in alcuni paesi europei. Ci sono però alcuni problemi, ad esempio si sono registrate nelle ultime settimane delle difficoltà legate agli approvvigionamenti, perché nel porto di Marsiglia, che è un centro di smistamento particolarmente importante per questo tipo di carburante, sono in corso alcuni scioperi contro il governo francese, ovviamente, e questo ha in qualche modo rallentato la distribuzione di questo carburante in Italia. Di tutto questo si è parlato qualche settimana fa a Roma in un convegno dedicato proprio a questo tipo di carburante. Noi ne parliamo oggi in compagnia del nostro ospite, che è Andrea Azzà, presidente di Assogas Liquidi Federchimica. Buongiorno, grazie per essere qui con noi. Buongiorno a lei e a tutti i suoi ascoltatori. Allora, cominciamo proprio con il capire che cos'è questo GNL, perché è così importante in questo momento per il mondo del trasporto pesante. È importante perché è la soluzione immediatamente disponibile per far sì che il trasporto pesante possa incidere molto meno sulle emissioni e quindi sull'impatto ambientale di questa attività. Da dati scientifici risulta evidente che le emissioni di un veicolo alimentato a gas naturale liquefatto sono migliorative sia per l'elemento più importante relativo alla qualità dell'aria, e cioè l'emissione dei famosi PM, sia per la riduzione anche delle emissioni di altri inquinanti o degli altri clima alteranti, come anche la CO2. Ecco, l'Italia è uno dei pochi paesi europei, se non sbaglio c'è la Spagna, forse il Belgio, ma poi ce lo dirà lei, che ha creduto fin dal primo momento a questo tipo di carburante. Ci sono però un po' di problemi sia di stoccaggio, e fra un po' ci spiegherà anche che cosa sta succedendo al porto di Marsiglia, sia di distribuzione con i distributori, appunto, da dedicare al travaso di questo carburante, alle stazioni di servizio, per intenderci, perché non tutte sono abilitate all'utilizzo di questo tipo di carburante. Qual è la situazione? Allora, l'Italia ha fatto passi da gigante, è partita dopo molti altri paesi, lei ne ha citati alcuni come la Spagna, che devo dire è partita per prima, ma oggi abbiamo una notizia importante da dare a tutti, è che il sistema di distribuzione italiano è il più numeroso e il più capillare in tutta l'Europa. Abbiamo oltre 70 distributori stradali attivi e all'interno di quelli che sono stati definiti dall'Unione Europea come Blue Corridor vantiamo una qualità di servizio che non ha alcun altro paese in Europa, quindi siamo partiti dopo ma siamo primi in questo momento. Bene, cosa sta succedendo invece in Francia, in particolare nel porto di Marsiglia, e come fare per ovviare in futuro a questi problemi? Purtroppo, come tutti sappiamo, c'è una questione di natura sociale rivendicativa nel paese, nella Francia, contro il governo che ha emanato delle disposizioni a modifica del trattamento di pensionistico delle persone, che hanno portato a questa conflittualità. Questa conflittualità ha dato luogo a scioperi di lunga durata e ha condizionato fortemente l'approvvigionamento del mercato italiano di GNL, perché poiché l'Italia non dispone ancora al momento di punti di approvvigionamento propri, il mercato italiano viene prevalentemente approvvigionato attraverso il porto di Marsiglia, come lei giustamente ha detto. È chiaro che l'azione di sciopero ha limitato fortemente la capacità operativa e quindi ha condizionato l'approvvigionamento di tutto il nostro sistema. Come industria possiamo dire che abbiamo dovuto fare fronte a un fenomeno particolarmente incontrollato e anche non prevedibile, ma non possiamo accettare che questo sia una spiegazione sufficiente. Per dare credibilità al futuro di questa industria dobbiamo essere in grado di mettere in atto tutte quelle politiche di prevenzione, certo, anche per fenomeni così estremi come è stato questo sciopero. Ecco, che tipo di difficoltà ha causato questo sciopero e anche se ci sono ancora queste difficoltà? Fortunatamente tutte le difficoltà che si sono verificate, e cioè la mancanza di prodotto in molte stazioni di servizio, è in progressivo esaurimento, quindi direi che oggi possiamo dire siamo alla normalità assoluta. Purtroppo questo ha causato certamente dei disagi e abbiamo dovuto anche come industria naturalmente fare delle scelte, assumendo anche dei costi supplementari pur di minimizzare l'impatto che dovevamo dare alle stazioni di servizio. Perché, lo ricordiamo, questi serbatoi vengono mantenuti a delle temperature bassissime, quindi hanno anche dei costi, tra virgolette, di gestione molto elevati. Direi che la costruzione è una costruzione per gas criogenici, la temperatura di esercizio è superiore ai 140 gradi negativi e quindi è un liquido in una condizione di precaria, certo, in termini di stabilità, però se in un veicolo industriale che fa consumi molto grandi questa instabilità è gestita perfettamente dal consumo che fa il veicolo, quindi è un sistema assolutamente... È una soluzione che vedremo solo ed esclusivamente sui veicoli pesanti per un certo periodo di tempo. Tra l'altro dobbiamo dire che solo alcune case costruttrici stanno investendo in questo tipo di prodotti, altre ritengono che sia appunto un carburante di transizione verso qualcos'altro di ancora più pulito. Qual è il vostro punto di vista? Guardi, noi riteniamo che nel medio periodo non esista un carburante più qualitativo di questo per affrontare sia i temi ambientali che di competitività. Quindi noi crediamo che si debba andare in questa direzione. La pensano come noi i più importanti costruttori di veicoli industriali e mi permetto di cogliere questa occasione e le sue domande per affermare che oltre al privato che sta facendo, l'industria privata italiana della logistica con coraggio stanno facendo scelte in questa direzione e con senso di responsabilità aggiungo, anche il pubblico e quindi tutte le autorità amministrative regionali, provinciali, comunali devono adottare delle soluzioni per far sì che anche il trasporto extraurbano debba funzionare con gas naturale liquefatto se vogliamo dare nel breve un serio contributo alla riduzione sia delle emissioni dei clima alteranti sia delle emissioni del particolato, che è quello che poi ci fa fare i fine settimana a piedi oppure ci fa limitare l'uso delle automobili e dei camion durante la settimana. Bene, termina qui questa puntata di Container. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Andrea Arzà, presidente di Assogas Liquidi Federchimica, con cui abbiamo parlato oggi del GNL, di questo gas naturale liquefatto particolarmente utilizzato in questo momento nel mondo industriale. L'appuntamento con Container, con l'informazione dedicata ai trasporti e alla logistica, torna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.